Bruzzi Doggy Team, Trical Mink, a.k.a. Team Extreme. Sì. Sim Salamin, abracadabdi ti sesamo. Teso, beso, flow, extra large da obeso. Ti penso soprattutto quando sono sopra il cesso. Stimolante per l'evacuazione corporale. Non ho il corpo per il morto che è il corpo del reato. Ben frigo conservato il corpo da rare. Quale è man, quale uomo, quale pische. Virux Game è original compare. Giusto per sottolineare, scioltezza e gesto tecnico, no tecnomo. Al massimo tecnologia del lessico. Ho qualità terapeutiche come il pepe in Messico. Mi chiamo Virux però, ma sono eccessi di classe come Messi al Camp Nou. Giovanu Glow, quando ti do colpi de Kido mentre rido. In sintesi parlando rappresent vibe. In un lampo vi si girano le pupille. Vai. Scene altamente ridicole con scimmie da palco. Con la scimmia dell'alcol. Tanto che vedo tre scimmie, non vedo, non sento, non parlo. Calco zone sotto il nome Bruzzi Doggy Team Commando. Creando tonnellate di combo a random. Traendo benefici dal demone che sto invocando. Bando alle ciance, qui lanciano lance. Meglio gratis che ripagato con le mance. Troppo né poco, ma pretendiamo il giusto. O almeno un flusso di energie che spinge a darti tutto. Tradotto in italiano vati curta. Se non scendi tu, sai io ti come una pena tutta.